figlie come stelle, figlie lontane, figlie di questo cuore spezzato. Volevo darvi un mondo senza guerre, voglio per voi una vita senza odio. Siamo qui, aspettiamo un nuovo giorno ancora, che porti sulla strada della felicità. Trovare la porta e stare ancora insieme. Figlie di questo cielo, figlie due perle, figlie di un padre senza meta, voglio per voi grandi prati della speranza e tutti i sogni spezzati, ritrovarli ancora. Su queste mani le mie lacrime, i miei occhi anno dopo anno hanno pianto per voi, figlie, figlie. Figlie, figlie. Figlie, com'è la luna, figlie, sulla mia pelle, figlie, come il sole, volevo darvi una vita diversa. Ma la tempesta crudele ha spezzato l'incantesimo, ma non spezzerà il bene più grande del mondo per voi. Figlie, con i capelli al vento, fiori di tutte le stagioni, figlie, figlie, figlie. Figlie, come primavera, è una favola. Figlie, gli anni corrono e sul mio viso stanco rugato c'è il vostro sorriso. Aprite le braccia con la vostra dolcezza e prendete il mondo. E sulle onde del mare i gabbiani canteranno per noi. Andiamo insieme verso l'universo colorato. Figlie, figlie,